Io nell'estate di quell'anno trascorsi una singola settimana nella vecchia villa dove era cresciuta mia madre. So many years have passed, but è tutto a posto? Ormai ci siamo quasi. Sì. Di nuovo la signora Haru. Guarda che guaio. Aspettami un momento, eh? Sì. Signora Haru! Ha di nuovo lasciato la macchina in mezzo! Sei di nuovo andata fuori, non è vero? E tra l'altro, che ne diresti di mettere un po' a posto? Sembra un campo, non è fantastico? Io non riesco a vedere nient'altro, che è tutto in disordine. Ehi, ma... quello lì è l'oro? Ah, E io che avevo intenzione di fare alla mamma un regalo di compleanno a sorpresa. Solo con questo saremo a posto per un anno. Però l'albero di alloro è parecchio lontano, giusto? E se gli umani ti scoprissero, cosa faresti? Ma non mi scoprono! Guarda che fuori di creature pericolose è pieno, eh? Nella famiglia di tuo zio... C'è anche chi è stato mangiato da un rospo, giusto? E poi anche quella foglia di perilla ha un buon profumo, no? In effetti. Certo, se avessi dello zucchero potrei preparare del buon succo di perilla. Aspetta stanotte, te lo prenderò in prestito io. La mia prima presa in prestito. Mi sono allenata a non finire. Oh, c'è il papà! Ben rientrato. Papà, per la presa in prestito pare di stanotte... Pare si sia aggiunto un bambino umano. Io l'ho visto quel ragazzo. Ma insomma, quante volte ti ho detto... Non sono assolutamente stata vista. Mi ero nascosta dietro alla foglia di alloro. Papà, che stanotte si va a prendere in prestito, era promesso, eh? Niente da fare con gli umani che non fanno che aumentare. Ma dai, è un bambino, è tutto a posto. Papà, io è da così tanto tempo che stavo aspettando che arrivasse questa notte. Spesso sono proprio i bambini a essere più tremendi. È tutto a posto. Di norma i bambini vanno a letto presto. Ti ringrazio, papà. Ma caro... Va tutto bene, pare che il bambino sia malato, non preoccuparti. Però... È tutto a posto, mamma. Farò attenzione a non finire. Anche Harriet tra poco avrà 14 anni. Se capitasse qualcosa a noi due, lei dovrà tirare avanti vivendo da sola. Dei nostri simili, oramai, potrebbe non essercene più nessun altro. Per qualsiasi cosa ci fosse, non esitare a chiedere alla signora Aru. Sì. Signora Aru, mi raccomando, eh? Sì, signora. Ah, signorino, bisogna chiudere la zanzariera, sennò gli insetti... Ma che... Quel colore non sarà meglio lasciarlo perdere? Ormai è una cosa che ho deciso. Allora mi raccomando, un fazzoletto di carta. E inoltre, se potesse esserci una zolletta di zucchero, potrei preparare il succo di perilla, che a metterlo nel tè è così buono. Però non importa, non datevi pena. Allora noi andiamo, mamma. Fate attenzione! Sì! Scusami tanto. Questa qui la porterai tu, Harriet. Sì. Reggiti ben stretta. Harriet, andiamo. Sì. Quanto è grande. È il mondo in cui vivono gli umani. Lo zucchero è laggiù. Aspettami di sotto. Thank you. Avanti, il prossimo è il fazzoletto. Papà, questo? Direi che si tratta della tua prima preda. L'estremità è acuminata, fa attenzione. Sì. Papà, è divertente prendere in prestito. Prova a guardare di sotto. Eh? Sono topi. Se ci si imbatte in quelli là, è un bel guaio. Nessun problema. Ora come ora, per quel che venisse, mi batterei con questo. Ci sono anche pericoli che si può evitare di sfidare. Qui dove ci troviamo? È una casa che gli esseri umani hanno costruito per le bambole. Ma è proprio precisa, perfetta per noi. Quel cassettone, se la mamma lo vedesse, sarebbe di certo contenta. Le cose che sono qui non vanno bene. Se le prendessimo in prestito, gli umani se ne accorgerebbero subito. Sì. Non avere paura. Oggi, nel giardino, ti avevo intravista. Mia madre me l'aveva detto che da piccola nel giardino di questa casa aveva visto un ognomo. Anche quello che ha visto mia madre sarai stata tu. Senti. Papà, scusami tanto. In giornata sono stata vista da quella persona. La mia ispezione è stata insufficiente. Ti ho fatto prendere uno spavento, eh? Alla mamma non faremo sapere nulla, che lei tende a preoccuparsi. Sì. Quel che gli umani faranno da qui innanzi per sondarlo approfonditamente non sarà troppo tardi. Siamo a casa. Ben rientrati. Allora, com'è andata? Oggi le cose non sono filate, Alice. Questa lampada nel mezzo della caccia non si è più voluta accendere. Dai. Per la zolletta di zucchero non ce la si è fatta. Ma non fa niente. Meno male che siete tornati sani e salvi. Su, Harriet, perché non fai vedere alla mamma la tua prima preda di presa in prestito? È proprio un bello spillo. Ora va a dormire. Allora, buonanotte. Sembra essersi stancata parecchio, eh? Ci vogliamo fare un tè? Thank you. Signorino Shaw, per il tuo corpo è veleno. Rientra. Cosa hai detto? Una zolletta di zucchero? Sulla presa da reazione. Credo sia la zolletta di zucchero che avevo fatto cadere l'altra notte. Ma avevi fatto cadere? Che vorrebbe dire? Non devi assolutamente metterci mano. È una trappola. Si stanno adoperando per fare in modo di catturarci! Per qualche tempo dovremo smettere di prendere in prestito. Potrebbero già averci scoperto! Pod, dobbiamo traslocare! Oh, anche se era una casa così confortevole. E invece dobbiamo lasciarla. Oh. Beh, stiamo ad osservare la situazione ancora un po'. Forza, la zuppa si raffredda. E tra tante cose, proprio una zolletta di zucchero! Ti ringrazio, Harriet. Avevo pensato di stenderli finché ci batte ancora un po' il sole. Figurati, a me piace tanto fare il bucato. Mi sono stancata un po', vado a riposare. Ti affido il resto, eh? Sì. L'avevi dimenticata. sei venuta? Aspetta, non te ne andare. Desidero che non ti curi più di noi. Sono venuta solo a dirti questo. Vorrei poter parlare con te. Gli umani sono pericolosi. Se ci scoprono, dovremo traslocare. Lo dicono sia il papà che la mamma. Così hai una famiglia. Che bello, eh? Tu non ce l'hai? Ce l'avrei, però mio padre non lo vedo praticamente mai e mia madre è impegnata col lavoro, così non è che stiamo troppo insieme. Ah, è così. Comunque, io, sai, mi chiamo Sho. E il tuo nome qual è? Un nome ce l'hai? Ma certamente che ce l'ho. È Arrietty. Arrietty. Arrietty. È un bel nome, eh? Non è che mi mostreresti il tuo aspetto. Anche solo per poco basterà. Basta anche solo un pochino. Te ne prego. Succede, signorino? No, è un corvo! Non si fa! Via, via! Prendi, prendi! Ma che gli sarà preso? Eppure non è che si spingano a entrare fin qua giù. Forse sono irrequieti perché nel periodo della posa delle uova. Ma ci sarà una zanzariera di ricambio? Ah, in effetti durante le grandi pulizie. Ah, signorino, non si sarà mica fatto male. Non sarà meglio se prende la sua medicina? La ringrazio, signora Haru. Per me è tutto a posto. Per la posa delle uova. Signorino, riposi tranquillo, per favore. Ti avevo detto di non avvicinarti. Ti chiedo scusa. Ho pensato che avrei dovuto fare qualcosa da me. Però il mio aspetto non l'ho fatto vedere. Sappi che tu stai mettendo in pericolo la tua famiglia. Non farti coinvolgere una seconda volta, d'accordo? Sì. Pare sia meglio se intanto lo cerchiamo. Eh? Un posto in cui traslocare. Caro. Buon pomeriggio, una consegna! Come sempre, scusi il disturbo. È alla salute. Senti, nei dintorni ci sono ditte che si occupano di cattura dei topi? Cattura dei topi, dice? Ecco, ce ne sarebbe una che si chiama Squid Clean Service. Squid Clean Service, eh? Aspetta un attimo. Sono saltati fuori dei topi? Del tipo, sai. Solo che mi sa che non sono dei topi. Eh? In realtà, vedi, ci sono degli gnomi. Li ho visti io. Nel pomeriggio un corvo si è spinto a entrare in stanza, dici? Ma è andato tutto a posto? Sì, dato che la signora Haru l'ha cacciato via. Sono rimasta davvero stupefatta. Un corvo così grande che è tutta un... Visto che l'agitazione è quanto di più nocivo possa esserci per il cuore, siamo venuti qui appunto perché si dice che sia un posto tranquillo. Se dovesse accadere qualcosa prima dell'intervento... Signora, ma questo poi... Per di più anche la signora Natsumi, per quanto possa dire che si tratti di lavoro, recarsi all'estero lasciando un bambino malato. Senza sua madre il signorino si sentirà solo, non è vero? Per quanto mi riguarda è tutto a posto. Se è divorziato non c'è niente da fare, però in un momento tanto importante sarà mai possibile che non possa stargli accanto. Senta, zia, la piccola casa che si trova in camera mia è proprio molto bella, eh? Ah, la casa delle bambole. Quella lì sarebbe una proprietà di tua madre, sai? Anche se, siccome non la viene a prendere, è rimasta lì. Di mia madre. In origine, vedi, era qualcosa che mio padre aveva commissionato in Inghilterra facendola costruire per gli gnomi. Eh? Mio padre in questa casa aveva avvistato degli gnomi e allora li stette sempre ad aspettare. Se un giorno gli gnomi si fossero fatti vedere, gli avrebbe voluto regalare quella casa. Però alla fine non si fecero vedere mica. Anche nella mia generazione non si sono mostrati nemmeno una volta. Signorino, dormendo in quella stanza si sono visti degli gnomi? Purtroppo no. In discendenza da mio padre tu sei la quarta generazione. Quindi se ti aggrada per successione diventerebbe una tua proprietà. Sto dicendo davvero? Certo. Ah, già, è quella casa delle bambole. Ha delle stanze straordinarie. Signor Haru, potrebbe gentilmente spegnere la luce? Sì. Qui c'è il soggiorno. Quel salotto completo pare l'abbia costruito un autentico artigiano dell'arredo. Ma è meraviglioso, eh? Al piano terra lo studio e in fondo ci sono addirittura il gabinetto e un bagno. Però a essere la mia preferita fra tutte è un'altra stanza ancora. Signor Haru, potrebbe gentilmente aprire laggiù? Sì, dice qui, giusto. Come in the garden. Che minuzie! È proprio ben fatta, vero? Se si collega all'elettricità, quel forno funziona veramente. È fantastico. Avrei voluto esaudirlo, il desiderio di mio padre. Ma in questa casa ormai gli gnomi potrebbero non esserci più. L'immagine alla finestra è la stessa da 3 anni, ma non la cambiamo. Quella lì è la mia preferita fra tutte. Un giorno riuscire a vedere il mare vero sarebbe il mio sogno, sai? E poi, ormai se anche la cambiassimo. Papà è in ritardo, eh? Certo, è venuto un brutto acquazzone serale. Sarà tutto a posto? Papà! Ma dall'ingresso sul retro. Papà, ben rientrato! Ho finito per farmi male a una gamba e il qui presente Spiller mi è venuto in aiuto. Caro? Ah, è terribile! Su, su, venite dentro! Tutto a posto. Sì, non è rotta. Guarirà presto. Adesso ti prendo dell'acqua per rinfrescarla. Su, asciugati bene il corpo con una sabbia. Chi è? Noi altri non eravamo rimasti solamente in 3. Io me ne vado. Aspetta, giusto di un tè, che ne diresti? Della medicazione me ne occuperò io. Tu va a preparare il tè per Spiller. Sì. Ti ringrazio, Spiller, di essere andato in aiuto di papà. Davvero, ti siamo obbligati. Senti, ce ne sono altri di nostri simili? Temevamo che di prendi in prestito avessimo finito per rimanere solamente noi. Ce ne sono tanti così. Ah, anche la cugina Lupi sarà di certo salva. Senti, quello è un arco, giusto? Mi fai vedere? Mm. con questo ci vai a caccia, eh? Guarda che quello lì è un oggetto importante. Restituiscilo. Io vado. Ma la cena sarebbe pronta, non ti fermeresti a mangiare? Io ho questo. Una zoppa di grillo! Vuoi? Guarda che è buono! Non mi va. Allora. Ti ringrazio per oggi. Io lo accompagno. Caro, eri andato in cerca di case, eh? Ero rimasto immobilizzato in mezzo al bosco quando è comparso Spiller. Quindi è così? Lui questi dintorni, sin oltre il fiume, li conosce bene. E inoltre pare essere anche a conoscenza di alcuni posti in cui traslocare. Meno male. Sembra che non dovremo dormire all'aperto, eh? Però ci sarà mai un'altra casa così bella? Sapere che ci sono altri nostri simili mi ha reso felice. E tu, Spiller, hai dei compagni e una famiglia. Famiglia? Io sono da solo. Capisco. Torna ancora a trovarci, eh? Lo stufato della mamma è veramente buonissimo, sai? Signora Haru. Ah, Harriet, se non lo cuci ancora un po' più fitto, non va bene. Scuci e rifallo da capo. Ma questo sacco così grande che cos'è? Per che cosa dovremmo usarlo? Io vado a vedere come sta il papà. Papà, posso un momento? Come va la gamba? Beh, ormai riesco abbastanza a camminare. Senti, papà. Ma noi traslocheremo? Essendo stati visti dagli umani, non possiamo evitare di traslocare. Io non penso che gli umani siano tutti quanti così pericolosi. Harriet, prima che tu fossi nata, in questa stessa villa ci vivevano anche altre due famiglie. Però di una di queste famiglie si persero le tracce, mentre l'altra invece traslocò. Erano stati visti dagli umani. Noi altri dobbiamo continuare a sopravvivere. Papà. Ma che... cos'è stato? Un terremoto? Ah! Ah! Io una cucina così me la vedevo in sogno. Oh. Solo il necessario, raggruppatelo subito. Non possiamo portarci così tanta roba. E inoltre, Omili, le cose della casa delle bambole lasciale tutte quante. Vado un po' a controllare il sentiero. Affido a te la mamma. Sì. Alla fine sei venuta, eh? La cucina è di tuo gradimento? Per colpa tua la casa è ridotta a un disastro. Ma ormai non importa. Oggi sono venuta a dirti addio. Posso guardarti? Sei proprio bella. Noi altri traslochiamo. Gli umani ci hanno visto. I prendi in prestito non possono venire scoperti dagli umani. Prendi in prestito? Prendiamo in prestito quel che c'è necessario dalle case degli umani un po' per volta senza farci notare. Sapone o biscotti o zucchero. Anche elettricità e gas. È dai tempi del nonnino di mio padre che tiriamo avanti così. E sinora senza mai farvi notare? Suppongo. È tutta quanta colpa mia. Mia! No, non devi. Comportati da amico. In questa casa, oltre alla tua famiglia, ci sono altri piccoli uomini. Qui non ce ne sono. Siamo solamente noi tre. E in altre case? Ce ne saranno di certo. Anche se ne ho incontrato ancora solo uno. Capisco. Però presto o tardi finirete per rimanere soltanto voi, giusto? Man mano state diminuendo, non è vero? Voi altri siete una specie in via d'estinzione. Ma non è affatto così! Ce ne sono ancora tanti, ti dico. L'ha detto anche Spiller. Spiller? È un nostro simile. Spiller dice che ci sono tanti altri nostri simili. Tu lo sai quanti sono gli esseri umani che si trovano a questo mondo? Sono 6,7 miliardi. 6,7 miliardi. E di voi altri? Non saprei. Ormai non ce ne sarà che qualcuno, eh? Anch'io, finché non l'ho sentito da mia madre, non sapevo di voi altri. Già sino ad ora moltissimi esseri viventi si sono estinti. Anche se anch'io non li ho mai visti che sui libri. Delle specie bellissime che, non riuscendo a sostenere i mutamenti ambientali della Terra, si sono estinte. Per quanto crudele, anche voi altri avete un simile destino. Destino, dici? È perché tu hai fatto cose inopportune che noi siamo costretti ad andarcene via da questo luogo. Dobbiamo sopravvivere ad ogni costo, l'ha detto anche il papà. Quindi anche se c'è pericolo ce ne andiamo in un nuovo posto. Facendo a questo modo la nostra razza tira avanti adattandosi a vivere da qualche parte, solo che voi non lo sapete. Noi altri non ci estingueremo tanto facilmente. Scusami, è proprio come dici tu. In realtà a morire sarò piuttosto io. Non sto bene qui. La settimana prossima mi opero, però andrà di certo male. Al cuore. Essendo malato da quando ero piccolo, non ho potuto fare nulla, così. Quando ho visto te ho pensato se solo potessi proteggerla, però infatti non è andata bene. Sul serio, scusami. La malattia è così tanto grave. Ma perché un affare simile sta in un posto così? Ma che... delle bambole. Trovati! Che succede? La mamma. È la voce della mamma. Questa è una bella cucina davvero, eh? In questa casa pare ci siano altre persone, eh? Ritorno a casa. Il soffitto è sconnesso. Pronto, è la Squid Clean Service. Sì, siamo noi. Potreste venire immediatamente? Non sono topi, ma ci sono dei cosi piccini. Non sono topi? Non dovete ucciderli. Quindi, intrappolamento? Esatto, desidero che li catturiate. Arrieti. La mamma è sparita! Eh? Il tetto sembra essere stato scoperchiato! Potrebbero averla catturata gli umani! La mamma! Cerchiamola insieme. Mm. Oh! stata chiusa a chiave. Forse potremmo uscire dalla stanza accanto. Niente da fare. Aspetta. Riesco a entrarci. In fondo c'è una strada per cavalli, no? Si accede da quella parte. Quella innanzi a quel ponte? Ma no, non quella là! La signora Haru deve aver aperto qui. La mamma, infatti, è stata rapita. Tutto a posto. Ma ancora non avranno trovato la strada. La chiave che? Potrei cortesemente avere del latte caldo? Certo! Aspetti solo un attimo, per favore. Mi voglia scusare. Mi è venuta fame. Ci sarebbero dei biscotti o qualcosa? Vediamo un po'. Mamma! Mamma! Mamma! Arrivati! Fine ci saranno riusciti a trovare la strada. Mamma, da questa parte. Allora, innanzitutto daremo un'occhiata intorno alla casa. Mi raccomando. Ma che cosa significa questo veicolo? Non trattateli con violenza. Signora Haru! Signora Haru! Ah, sì! Che cos'è mai questa confusione? Signore, che... sono saltati fuori gli gnomi. Gli gnomi? Esatto! E si tratta di gnomi ladri. Sono gli gnomi ladri che in casa rubano un sacco di cose d'ogni genere. Signora Haru, ma cosa sta dicendo? Era da tanto che io dicevo di aver visto gli gnomi ed era la verità. Comunque non c'era mica da chiamare la ditta di deratizzazione. Bisogna catturarli in fretta, che ce ne sono chissà quanti. Ad ogni modo diamo un'occhiata a questo. Ecco, questa qui è la tana. Tana? Mi pare piuttosto di vedere un mucchio di immondizia. Ma come? Era proprio qui! Signora Haru, vedo di congedare i signori della ditta. Ma aspetti un attimo, per favore! Signorino, possiamo disturbare un momento? Prego. Signora, è stata rubata anche quella cucina. Ecco, guardi, per favore. C'è. È sempre bello guardarla, eh? Mm. favore, aspetti, signora. O non l'ho catturato per bene. Alla signora Aru, ma che le sarà preso? Ma... che buon profumo di erbe. C'è stato preparato del tè. Così come aveva detto mio padre, qui ci abitavano davvero degli gnomi. È proprio così. La signora Aru li avrà visti davvero, anche se diceva che sono degli gnomi ladri. Non sono affatto dei ladri, sono prendi in prestito. Eh? Niente, è che vorrei incontrarli anch'io. Di certo saranno da qualche parte. Deve essere così. Signora, mi scusi. Da dove incominciamo? Che cosa le succede? È scappata! Dopo tanti sforzi fatti per catturarla! Gli gnomi ci sono veramente! Ma la prossima volta li catturerò! L'appuntamento con Spiller c'è ancora molto. Oh. Si trova attraversato il bosco, dopodiché si scende sul fiume. Oh, io ormai sono ridotta a pezzi. Dico, attraversare il bosco è impossibile. Sbrighiamoci. Ma è impossibile! Cerca di mangiare almeno un po'. Che poi ci resterà da camminare fino al mattino. Scusatemi tanto. A causa del mio egoismo, abbiamo dovuto abbandonare la nostra preziosa casa. È cosa passata. Noi tre insieme costruiamo un'altra fantastica nuova casa. Esco un pochino qui fuori. Vedi di non allontanarti, eh? Thank you. Mia. Manca ancora poco. Questo qui è l'ultimo. Forza, siamo alla partenza. Sì. Mamma, tutto a posto? Arieti. Stiamo proprio per partire. Per fortuna ho fatto in tempo. È stato Mia a farmelo sapere. Ti ringrazio. Abbi cura di te. E d'altro ci sarebbe... Questa volta sarei felice se tu potessi accettarla. Ti ringrazio. Ormai devo andare. L'operazione quando sarà? Dopodomani. Ce la metterò tutta. Grazie a te mi è scaturito il coraggio di vivere. Tieni questo con te. Ti ringrazio. Il tuo proteggermi mi ha reso felice. Arietti. Fin quando sarà, abbi cura di te. Addio. Arietti, tu sei diventata una parte del mio cuore. Non ti dimenticherò. Per sempre. Chicago.